Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Non ci siamo, questi rivetti devono essere completamente lisci. Voglio che ogni dite e giunto siano fresati. Non voglio resistenza dell'aria sulla fusoliera. Deve essere completamente liscia, Odi. Liscia, intesi? Ok, Howard. Non so che altro dirti. Buongiorno, avete appena sentito un frame del film The Aviator con Leonardo DiCaprio, un film di Martin Scorsese che racconta di un imprenditore leggendario, Tucker, fondatore della TWA e di altre importanti aziende, un imprenditore del mondo dell'industria aeronautica. Ecco, questo è un film che a me piace moltissimo perché rappresenta l'imprenditore come un eroe, come un visionario, come un personaggio che altrimenti poteva essere un grande politico, un grande leader. Ce ne sono pochissimi di film che rappresentano l'imprenditore e addirittura l'imprenditore manifatturiero in questo modo qua. Ho scelto questo clip, uno per questo motivo, due perché poi c'è tutta la storia dei rivetti che devono essere completamente lisci perché è un modello di aereo. Noi invece parliamo di Industry 4.0, che è l'argomento di questa puntata, e se ritornasse Tucker al giorno d'oggi potrebbe fare tantissimi aerei diversi e personalizzati con i rivetti in posizioni diverse, magari o lisci oppure che si sentono al tatto a seconda delle necessità, perché uno degli elementi fondamentali dell'Industry 4.0 è la personalizzazione. L'Industry 4.0 non è solo una cosa che starà nel chiuso delle fabbriche, è una cosa che cambierà la vita di tutti noi, cambierà la produzione, cambierà l'economia, cambierà la società, cambierà la cultura. È una rivoluzione industriale che, come tutte le rivoluzioni industriali, non sta nel chiuso delle fabbriche, ma va fuori e condiziona la società. Di questo argomento e di che cosa sta succedendo ne parliamo oggi con due persone che lo vivono da vicino. Una è il professor Patrizio Bianchi, che è uno degli ospiti abituali di questa trasmissione, professore di economia industriale, poi con un ricco curriculum, Nomisma, IRI, e adesso si diletta nel fare l'assessore alla formazione. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. E l'altro è Giuliano Busetto, CEO della divisione Industry di Siemens Italia e che studia vari aspetti dell'Industry 4.0. Buongiorno ingegnere. Buongiorno a voi. Allora, ingegnere, intanto ci dica, che cos'è un rivetto? Beh, è un rivetto, è un modo, forse un po' obsoleto, ma comunque molto utilizzato, giusto per definire un'unione tra due componenti senza ricorrere a saldature. Ecco, ho detto bene che quando arriveremo all'Industry 4.0 attuata, uno potrà fare tanti aerei diversi con i rivetti messi anche in posizioni diverse a seconda delle esigenze. È una delle caratteristiche di Industry 4.0, è legata alla flessibilità produttiva, è legato al fatto di un aumento sensibile di personalizzazione dei prodotti, qualsiasi essi siano, quindi parliamo di automobili come ad esempio potrà essere l'aereo. L'aereo forse la quantità di pezzi ovviamente che si producono è diverso rispetto ad altre tipologie di prodotti, ma il concetto è assolutamente valido. Ecco, ma che cos'è questa Industry 4.0 della quale parlano tutti? Da un lato parliamo di tecnologie caratterizzanti Industry 4.0, quindi dalle cloud ai cyber security, parliamo ovviamente dai collaborative robot. Molti aspetti invece riguardano proprio la virtualizzazione, la simulazione, riuscire a progettare, programmare, simulare il comportamento di una macchina o come la macchina, l'oggetto, deve essere costruito, e quindi anticipando le fasi di progettazione riesco alla fine a ridurre il time to market, che è uno degli aspetti per rendere più competitiva l'azienda. Quindi l'azienda riduce i tempi di sviluppo di un proprio prodotto e soprattutto lo rende il più possibile personalizzato a seconda delle necessità dell'utilizzatore. Professor Bianchi, lei come la definirebbe l'Industry 4.0? Guardi, noi continuiamo a parlare di Industry 4.0 soltanto guardando il pezzo della fabbrica, cioè soltanto dicendo oggi abbiamo dei grandi strumenti tecnologici che ci permettono di fare in grande dimensione, cioè in grandi numeri, prodotti unici. Però c'è anche il mercato. Il mercato è l'altra componente di Industry 4.0, perché noi siamo in grado di fare tanti prodotti personalizzati in grandi numeri perché abbiamo dei mercati di estensione globale che più si sono allargati e più si sono segmentati. Più il mercato è grande e più si segmenta, e quindi siamo in grado di rispondere a delle domande differenziate sui diversi ambiti. In un mercato chiuso abbiamo delle piccole nicchie che a volte non permettono di fare differenziazione. In un mercato globale quella nicchia diventa un nuovo mercato. Quindi Industria 4.0 è la capacità di rispondere a domande sempre più specifiche in dimensioni sempre più globali. Ecco, e Siemens che cosa fa per queste cose? Perché Siemens è un'azienda manifatturiera che a sua volta fa da supporto alle altre aziende manifatturiere, perché voi avete la parte di automazione, avete la parte di software industriale, avete la parte di robot e avete la parte di ingegneria. Nello specifico, sull'Industry 4.0, che poi vuol dire l'industry perché tutto va verso la digitalizzazione, voi cosa fate? Sì, una precisazione, i robot non fanno parte del nostro portafoglio, ma il controllo dei robot sì. Eh sì, il controllo è vero. Siemens ha investito, direi in anticipo, moltissimi anni fa, una decina d'anni fa, nell'acquisizione anche di importanti società nel mondo dell'industrial software. Quindi parliamo di CAD/CAM evoluti, parliamo di PLM, che sono una componente necessaria per arrivare a far quello di cui abbiamo appena parlato, e cioè la simulazione, la virtualizzazione, creare un modello digitale del prodotto che andrò poi a costruire. Siemens poi ha investito molto nelle proprie fabbriche, perché è un modo anche per convincere i clienti, se noi possiamo dimostrare che anche il nostro processo manifatturiero si basa sugli stessi principi. Quindi per fare un prodotto, un personal computer industriale o fare un'automobile, ad esempio una Maserati, il concetto è identico. Il concetto dal punto di vista produttivo. Quindi Siemens crede molto, lo utilizza all'interno delle proprie unità produttive e cerca di aiutare e convincere i clienti che la propria produzione cambia radicalmente. Non è solo come noi progettiamo l'oggetto, ma è proprio il processo interno, la cultura interna, la capacità di affrontare contemporaneamente problematiche di meccanica, di meccatronica, di automazione, di ICT. Ecco, l'Industria 4.0, che poi vuol dire la completa digitalizzazione della produzione e l'uso dei dati che arrivano dalla digitalizzazione totale della produzione per fare sempre più varianti, sempre e cose sempre più perfette. Ecco, l'Industry 4.0 è un concetto inventato dai tedeschi. Sì, è inventato dai tedeschi proprio come processo e progetto di collaborazione tra università, imprese e governo, istituzioni tedesche. Poi ha trovato una propria declinazione in altri paesi, quindi in Francia, negli Stati Uniti, anche in Cina. E l'Italia avrà un suo modello, perché l'Italia ha un mercato manifatturiero tra i principali nel mondo, secondo in Europa, è un paese dedito all'export. Non abbiamo grandi imprese manifatturiere finali, se non nel settore automobilistico o nel settore aerospaziale, ma abbiamo moltissimi costruttori di macchine che partecipano alla filiera e quindi devono essere in linea con le esigenze del loro cliente finale, industria manifatturiera. Quindi esportano, quindi avremo un nostro modello caratterizzato da quello che l'industria italiana è e oggi rappresenta. Professor Bianchi, Industry 4.0 vuol dire io metto un chip, un sensore, un telefono su ogni componente, questi sensori trasmettono i dati alla fabbrica, li trasmettono al sistema di controllo, li trasmettono ovunque e c'è una conoscenza di tutto quello che avviene durante, prima, dopo e durante la vita del prodotto, e tutto questo crea delle informazioni importanti che sono i cosiddetti big data. Lei sui big data mi risulta che ha appena scritto un libro. Sì, noi stiamo lavorando molto su big data, stiamo lavorando moltissimo, perché big data è la capacità non soltanto di mettere in magazzino l'enormità, i milioni, i miliardi di dati che ognuno di noi produce al giorno oltre che a consumarli, ma il problema è fare anche quelle che si chiamano le chiavi analitiche. Se lei ha un magazzino e non riesce a capire come è ordinato il magazzino, praticamente inutilizzabile. Su questo è uno dei luoghi di incrocio fra le università e le imprese. Bisogna, e noi lo stiamo facendo, investire molto sulla capacità di tenere i dati, immagazzinarli, sulla capacità poi di avere delle chiavi che rispondano ai bisogni emergenti del mercato, perché il problema oggi più che mai non è soltanto produrre e produrre beni personalizzati, ma rispondere a delle domande di mercato. La vera concorrenza oggi è nel capire i bisogni dei singoli clienti e quindi dare a loro dei prodotti molto precisi. E allora i dati non riguardano soltanto la officina, ma riguardano anche tutta la rete vendita. Certamente, ma come l'utilizzo dei big data cambia il mondo dell'industria? Guardi, quando lei dell'industria, dell'agricoltura, della vita quotidiana, teniamo ben forte la cosa che lei ha detto all'inizio, è una rivoluzione industriale, quindi cambia non soltanto quello dentro le fabbriche, ma anche tutto quello che c'è fuori. Guardi, nel momento in cui lei deve produrre un prodotto e un modello, la vecchia fabbrica fordista, quella che abbiamo ancora nelle nostre immagini, lei aveva sostanzialmente una catena di montaggio in cui erano incastrate dentro tutte le informazioni, tant'è vero che per cambiare anche in maniera marginale un prodotto, il famoso, si ricorda gli sportelli delle 600 che una volta si aprivano in un modo e poi si aprivano in un altro, sì, bisognava fermare tutto il processo. Questo era possibile quando i prodotti erano omogenei e la concorrenza era sul prezzo. Poi abbiamo avuto un lungo periodo, gli anni 70, di prodotti differenziati, cioè come su una stessa base si facevano delle differenziazioni, però in numero limitato. Adesso lei deve avere, invece, che ha delle macchine, diciamo, in grado di produrre di tutto, ma lei deve avere contemporaneamente tutti i dati del suo cliente, tutti i dati del prodotto che lei deve fare, tutti i dati della macchina che deve produrre quel bene, tutti i dati di poi quel prodotto vivrà nel tempo, la cosiddetta tracciabilità. Questi sono milioni di dati, ma ad esempio, vi faccio un esempio nell'agricoltura, sì. Se in agricoltura noi una volta piantavamo i campi di grano e poi li andavamo a raccogliere, quello che raccoglievamo, noi stiamo andando verso una grande rivoluzione agricola che segue lo stesso principio, perché ci sarà anche un'agricoltura 4.0. Mettiamo il chip su ogni patata? No, ma facciamo di più. Noi dobbiamo sapere tutti i dati del terreno in cui lei sta investendo, tutti i dati dei prodotti, tutti i dati della meteorologia. Ecco, su questo la interrompo, perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità, però restate con noi. Fabbrica 2.4. Howard, aspetta, ne sei sicuro? Non vuoi pensarci almeno 5 minuti? Senti Jack, quando prendo una tigre per la coda, non la lascio certo andare. Rieccoci in linea, questa era un'altra clip del film The Aviator con Leonardo DiCaprio, un film di Martin Scorsese, tra l'altro candidato a 11 Oscar, che presenta l'imprenditore come un eroe, come un personaggio leggendario. Ecco, io ritengo che abbiamo bisogno di una narrazione dell'imprenditore che lo restituisca a quello che è. Se noi guardiamo la TV o leggiamo i giornali, è sempre un mix fra l'imbroglione, quello che si arrangia, il maneggione, lo speculatore, l'avido, il problema. In realtà questa società esiste perché ci sono gli imprenditori. Se non ci fossero gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori industriali, noi saremmo alla fame, perché è l'impresa che dà da mangiare a tutti e il ruolo dell'imprenditore va rivalutato, e questa è una delle mission della trasmissione che state ascoltando, che ascolterete ancora fino almeno a giugno 2017. Questa infatti è la prima puntata della nuova stagione di Fabbrica 2.4. Sono con noi già dalla prima parte della trasmissione Giuliano Busetto, CEO del settore industry di Siemens, e Patrizio Bianchi, professore di economia industriale all'Università di Ferrara, di cui è stato anche rettore, nonché titolare di un sacco di altri incarichi e di un curriculum che, se stessi qui a leggerlo tutto, dedichiamo una trasmissione solo a questo. Allora, parlavamo di Industry 4.0. Professore, ma come cambiano i mercati con l'Industry 4.0? Sì, questo è il punto. In realtà stiamo andando in una fase di forte maturazione di quel fenomeno che chiamavamo globalizzazione, che all'inizio era solo l'apertura del mercato e quel che succede, succede. Oggi noi vediamo che in tutti i mercati c'è una fortissima segmentazione della domanda. Quindi noi troviamo sugli stessi mercati dei prodotti molto diversi fra di loro. Troviamo le scarpe da 2.500 euro fatte in Italia, perché questa è l'immagine che noi abbiamo, e le scarpe da 15 euro importate dal sud-est asiatico. Si chiamano scarpe, ma è chiaro che sono prodotti molto differenti fra di loro. E quindi la differenziazione dei prodotti, la differenziazione della domanda, la differenziazione dei mercati esalta moltissimo anche il circuito che va dalla rete di vendita alla progettazione, dalla progettazione alla produzione. Industry 4.0 è anche la capacità di gestire una quantità di prodotti finali molto differenti fra di loro, unificando al massimo però il flusso delle informazioni. Questo mi sembra il punto fondamentale. Ma ecco, sull'Industry 4.0 credo che sia necessaria una definizione puntuale. Eccola nella scheda. E questo ritorno al prodotto su misura, in fondo alla vecchia matrice artigianale che noi abbiamo. Rieccoci in linea con Patrizio Bianchi e Giuliano Busetto di Siemens per parlare di Industry 4.0. Avete appena sentito la scheda. Ecco, sull'Industry 4.0 tutti i governi del mondo hanno presentato un piano. Devo dire che quello più forte, più convincente, con maggiori investimenti è stato quello tedesco. Ma adesso arriva anche l'Italia. Il 4 settembre scorso a Cernobbio il ministro Calenda ha annunciato le linee generali del testo che dovrebbe essere reso noto ad horas. Ci sono tre parti, una sugli incentivi, una sulla formazione, l'altra sugli standard. Professore, lei ha sentito un po' queste indiscrezioni e anticipazioni, cosa ne pensa? Beh, innanzitutto è bene che anche noi siamo arrivati su questo dibattito avendo finalmente una posizione forte del governo, cioè la forte rilevanza di questo argomento. Personalmente, da quello che ho sentito, io rilevo due cose. Uno, di fronte a un problema globale come è i mercati aperti e contestualmente questi sistemi di produzione che hanno catene del valore che si spargono in tutto il mondo, mi sembra che continuiamo a dare delle risposte solo nazionali, neanche europee. Secondo, mi pare che nel piano, che però non ho visto nella sua interezza, continuiamo a concentrarci molto sull'incentivazione all'investimento materiale. È bene che sia emerso il problema della formazione, ma io insisto molto, c'è un problema proprio di dimensione di impresa e di relazione con i mercati, di controllo con i mercati. Cioè, ho l'impressione che anche in questo noi dovremmo essere un pochino più aggressivi. Ecco, Busetto, lei che cosa ne pensa? Che piano sarebbe necessario? E come valuta queste anticipazioni? Beh, è sempre meglio vedere poi il piano completo. Comunque è meglio non perdere ulteriore tempo, perché noi forse arriviamo un po' dopo e abbiamo un gap da colmare rispetto ad altri paesi, come abbiamo appena detto, sia la Germania, la Francia ed altri. Non dobbiamo dimenticare il contesto della nostra industria manifatturiera, quindi la costituzione di medie e piccole imprese. Dobbiamo aiutarle. Il fatto dei superammortamenti è un po' analogo a quanto è successo per esempio nel settore delle macchine utensili. Alcuni contributi positivi ha sicuramente portato questo. Dobbiamo anche pensare che grandi imprese, l'ha detto prima il professore, noi approcciamo i mercati non tanto come mercati finali, ma aiutiamo poi in un concetto di filiera a essere presente nei mercati finali, perché siamo un mercato manifatturiero prevalentemente costituito da export. Abbiamo delle eccellenze straordinarie in Italia anche dal punto di vista imprenditoriale. Dobbiamo aiutare a capire fino in fondo il concetto di Industry 4.0. Mi rallaccio a quanto diceva il professore, se mi permette. Perché anche si è avvertita la necessità e l'esigenza? Perché ci si è resi conto anche dal punto di vista qualitativo, un prodotto più di tanto non può essere evoluto se non invece introducendo disruptive, un concetto nuovo, cioè la digitalizzazione, la virtualizzazione, l'anticipare come quel prodotto deve essere progettato. È così che noi riusciamo poi effettivamente a migliorare la qualità e la tipologia di prodotti, qualunque essi siano. Il piano è importante, noi stessi anche come io ho anche un ruolo di presidente di Ani Automazione, abbiamo contribuito nei confronti del Ministero anche con Confindustria, Confindustria Digitale, a portare a dei suggerimenti. È importante avere degli hub. Noi anche come società ci proponiamo di essere punto di riferimento per queste tecnologie, per aiutare a comprendere fino in fondo quanto queste modificheranno radicalmente i processi produttivi interi e quanto questo sia un problema anche di cultura aziendale. non abbiamo neanche, se vuole, i profili giusti di ingegneri. Ecco, probabilmente, infatti, sui profili giusti e sulla formazione dedicheremo una puntata intera con l'ingegner Busetto, che andrà in onda domenica della settimana prossima. Senta, professor Bianchi, su come cambiano i mercati con l'Industry 4.0 va fatto un ragionamento anche relativo alla formazione. E lei mi citava il caso di un esperimento che voi avete fatto proprio in Emilia-Romagna, dove lei è assessore, tra l'altro, alla formazione, sulla formazione di operai specializzati, praticamente artigiani, nelle calzature d'alta gamma. Me lo può rifare questo ragionamento che mi aveva fatto in privato, perché è assolutamente affascinante. Ah, ma guardi, le dico subito. Allora, 4 anni fa, una grandissima impresa francese, leader assoluta nel comparto delle produzioni di lusso, mi viene a trovare e mi dice che deve fare ha comprato un nuovo marchio, e proprio perché... E qual era questa multinazionale? Louis Vuitton. La Louis Vuitton aveva comprato Berluti. Aveva comprato Berluti, esatto. E la cosa interessantissima di questa operazione che cos'era? Che ovviamente, operando sul mercato mondiale, mi dava la dimostrazione esattamente di quello che dicevamo prima: il mercato si segmentava, e quindi neanche più il loro marchio di punta Louis Vuitton era sufficiente, e quindi avevano preso una fascia ulteriore verso l'alto. Sì, perché Berluti sono quelle bellissime scarpe fatte a mano, che vanno dai 1.500 ai 3.000 euro di prezzo, esatto. Esatto. Fanno a Ferrara. Che fanno a Ferrara? Allora, e voi avete ricreato, esatto, le competenze degli operai che fanno quelle scarpe lì, richiamando dal lavoro degli operai che lavoravano in un'azienda. Quando qual era l'azienda chiusa? Si chiamava Zenith. Quando vennero da me questi della Vuitton, io domandai che cosa potevamo fare per sostenere questo loro investimento, anche offrendo la classica offerta di incentivi. E loro mi hanno detto molto semplicemente: no, abbiamo bisogno di una scuola per fare prodotti di eccellenza. Prodotti di eccellenza si fanno a mano, oppure si fanno anche con le tecnologie più sofisticate, ma alla fine devono essere di eccellenza. Allora siamo andati a recuperare i vecchi operai di questa vecchia azienda che facevano prodotti di eccellenza, ma in un mercato piccolo e chiuso, e quindi era fallita l'azienda, per fare scarpe di grande qualità per una fabbrica che opera però all'interno di un gruppo in un mercato aperto e segmentato. Quindi avete recuperato questi operai, questi qui, certo, hanno lavorato nello stabilimento della nuova Berluti gestione Louis Vuitton, e contemporaneamente hanno formato i giovani operai, certo, specializzati. Tra l'altro, per fare quelle scarpe lì ci vuole un know-how che ci vuole qualche anno a formare. Ma cosa c'entra tutto questo con l'Industry 4.0? Perché è questo che non capisco. No, il paradigma di che cosa oggi è Industria 4.0. Al di là delle tecnologie che sono fondamentali per fare in grandi numeri prodotti personalizzati, alla fine il vero problema è lei dove si colloca sul mercato, cioè in quali prodotti lei riesce a utilizzare questa combinazione di competenze e tecnologie. Ecco, io credo che noi come paese dobbiamo posizionarci su quella fascia lì, sulla fascia della grande eccellenza, in cui la possibilità di fare prodotti personalizzati, cioè il vecchio mestiere degli artigiani, e le nuove tecnologie ci permettono di operare su tutto il mondo. Allora, questo è un paradigma, una dimostrazione, se vuole, di che cosa è oggi anche Industria 4.0. Attenzione che è ancora una volta la capacità di mettere insieme dei mercati che si segmentano con domande nuove di mercato, e la capacità di produrre beni uno alla volta, però in grandissimo numero. Bene, il tempo è tiranno, la devo salutare, ma sarà ospite nostro in numerose altre occasioni. Saluto anche l'ingegner Busetto di Siemens, col quale avremo occasione di tornare a parlare domenica prossima. Benissimo, arrivederci. Arrivederci, grazie, professor Bianchi. Arrivederci a tutti.